eccoci di nuovo. Dunque, domani pomeriggio, ore 17:30, assemblea alla all'occupazione di Piazza Indipendenza, un appuntamento importante perché insomma si cercherà di parlare delle questioni che ruotano attorno alle occupazioni, a questa occupazione in particolare, la cui composizione è soprattutto data da rifugiati eritrei. Noi siamo al telefono con Andrés, che salutiamo. Ciao, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, un'occupazione che è nata la settimana prima del 19 ottobre, che si può dire ha lanciato questa importante settimana di mobilitazione. Domani, insomma, ci si vede per, immagino, discutere di quanto quel presidio stia diventando importante, di quanto può crescere attorno ad esso, no? Sì, certamente. Questa occupazione poi nasce il 12 ottobre, la settimana di mobilitazione per riappropriazione di quegli spazi che vengono negati da questo Stato che dimentica appunto che la composizione sociale della popolazione è mutata, e da cui appunto ci sono questi richiedenti asilo, rifugiati che sono abbandonati dallo Stato, dimenticati come non esistenti. La stessa pratica che si faceva nei primi 80, quando si diceva come gli immigrati non ne parlavi, meglio era, perché così sembrava che non esistessero. Così i richiedenti asilo, i rifugiati, abbiamo pensato con loro, insieme col coordinamento, di occupare uno spazio che non a caso è stato scelto centrale, per ricordare appunto a queste persone che governano, che queste persone esistono in realtà, in una struttura che è centrale, appunto richiede ed è a vista di tutti, riprendere questa problematica e affrontarla definitivamente, almeno non perché noi pensiamo che siamo noi a dare la soluzione, ma perché è importante sapere che questa situazione c'è e che deve andare risolta. E secondo noi, come la penso anch'io personalmente, è che fino a che non si sarà, saranno state assunte tutte le direttive europee su rifugiati e richiedenti asilo e non si sia fatta una legge organica sulla solidarietà, sicuramente questa problematica non si risolverà. Ecco perché pensiamo, come si lega anche alla questione abitativa questa roba, perché appunto essendo abbandonati da ogni situazione sia amministrativa dello Stato, le persone si trovano anche a ingrossare le file di persone in emergenza abitativa, perché sono piene di baraccopoli, di queste persone che scappano appunto dal CARA, che è un altro centro che noi mettiamo in discussione insieme ai CIE, perché anche lì abbiamo visto che la soluzione non è quella, bensì la soluzione sarebbe un'accoglienza diversa, un'accoglienza dove appunto le persone possono poi partecipare a quello che è la costruzione della propria vita in modo diretto, senza i blocchi, senza le mura che ogni volta lo Stato gli mette davanti. Eh sì, assolutamente. Sei partito tra l'altro sottolineando la situazione di estremo abbandono a cui queste persone vanno incontro una volta giunte in Italia, sebbene sia riconosciuta poi il loro status di rifugiato, ma senza poi che questo significhi niente praticamente. A Roma è una situazione spaventosa, cioè prima di questa occupazione, in cui fortunatamente adesso insomma più di 500 persone hanno da dove dormire, molti di questi stavano insomma per strada. Esatto, quindi la caratteristica importante di questo appuntamento è che non è solamente un appuntamento romano, ma diventa anche quasi nazionale, perché verranno rappresentanti di altre città che vivono la stessa problematica e che non hanno, cioè che hanno sì risposte anche di occupazione, ma tu sai bene che in questo paese anche le occupazioni dei migranti in generale, perché queste sono le prime a essere sgomberate, anche perché prive di un supporto, diciamo così, più allargato a essere il movimento. Eh sì. Dunque, nell'assemblea si porranno oltretutto delle parole d'ordine molto importanti, sulle quali anche negli anni passati, insomma, comunque si è cercato di mettersi in rete. E cioè l'abolizione della Bossi-Fini, dei centri di detenzione per immigrati e appunto una garanzia definitiva sul diritto d'asilo. Insomma, sono misure peraltro minime che devono essere assolutamente fatte. Esatto, noi pensiamo che appunto questa roba doveva essere affrontata appunto riprendendo le parole d'ordine, ma riprendendo anche le parole che quelle battaglie che possono appunto avere un riscontro effettivo, perché come la struttura, come ha detto questo governo, sicuramente non farà queste urgenti modifiche che sono richieste. Per cui è un lavoro che andrà per le lunghe, noi pensiamo invece che le cose immediate dobbiamo conquistarcele subito, cioè garantirci che quello spazio possa essere rientra in una delle qualitativamente non possa venire sgomberato, perché sta presente comunque un punto di arrivo, di approdo delle persone richiedenti asilo, anche dei migranti. Per quanto riguarda la questione, sì, bene, la questione non è solamente della vostri fini. Questa che la Bottiglia si è alimentata da tutte quelle modifiche, quelle direttive che ha fatto il governo Prodi, il governo che ha fatto tutti i governi precedenti all'esperienza di sinistra, insomma, che hanno fatto un cammino che ha favorito l'arrivo della Bottiglia, quindi tutto il pacchetto, in realtà, quello che andrebbe rivisto in una legislazione nuova su immigrazione e appunto sull'asilo. Questo è quello che si chiedono in modo chiaro. Poi, ripeto, la questione fondamentale per noi è costruire intorno a questa occupazione una serie di solidarietà e di comprensione della necessità dell'esistenza di un posto come questo, perché non possiamo attendere ancora che sia lo Stato a garantire a queste persone quello che invece stiamo chiedendo tutti, che è appunto, diciamo, cassa, reddito e dignità. Questo è quello che noi, la parola grossa che noi diciamo, la grande opera che vorremmo che questo Stato affrontasse una volta per tutti, ossia il benessere delle persone innanzitutto, a prescindere dalla provenienza geografica, perché questo lo capiamo, è un problema politico che cerchiamo di affrontare anche lì, perché sappiamo i rapporti passati del colonialismo dell'Italia con l'Eritrea, tutti questi discorsi qua, ma naturalmente questo ci porta fuori l'argomentazione che non ci interessa, che è appunto la solidarietà e sempre non abbandonare un'esperienza come questa, ma aiutarla a crescere, sviluppando al suo interno o dello sportello o delle scuole italiane per stranieri, quello che sarà utile a che un mantenimento, come si dice, di una norma così più o meno pacifica rispetto al quartiere, rispetto all'intera città. E senza dubbio è un'esperienza da far crescere, anche perché Andres è una testimonianza importante di quanti passi avanti si possano fare insieme a partire appunto dall'incontro, no? Tra situazioni, in realtà provenienze soprattutto diverse, insomma è ormai così all'ordine del giorno, una priorità che le lotte ci stanno insegnando come tale, insomma, che tra appunto migranti italiani, tra tutti ci si può incontrare sul terreno delle lotte sociali, e effettivamente insieme, insomma, se ne possono fare di cose importanti. Esatto, perché queste cose, guarda, adesso possiamo approfittare anche di tante situazioni che si prevedono, la possibilità di una risposta più forte, non so, vedi la questione anche dei concorsi pubblici, tutta questa cosa che riguarda i migranti residenti, le esclusioni che c'hanno per dire anche al servizio civile, tutte queste robe qua, evidentemente diciamo che c'è una specie di scontro tra le direttive europee e le direttive del governo italiano, che continua a pensare che poter gestire una problematica come questa e con le leggi securitarie, con la repressione, con gli sgomberi. Invece noi diciamo no, è il momento, dobbiamo fermarci e ragionare, che oltre, vabbè, che la spinta che non è sempre positiva, ma in questo momento sì è abbastanza positiva secondo noi per il momento di lotta da parte dell'Europa, quindi dobbiamo approfittare di questo per costringere lo Stato sia al riconoscimento di queste direttive favorevole ai migranti, sia favorevole anche ai richiedenti asilo, e utilizzare tutti poi gli strumenti che noi come movimento sviluppiamo riappropriandoci di ciò di cui abbiamo bisogno, e appunto facendo partecipare queste persone come già ci stanno dentro la nostra occupazione, dentro il nostro movimento. Assolutamente, e soprattutto ecco, diciamolo in conclusione, un messaggio forte e chiaro che deve arrivare anche a chi così all'oscuro nelle proprie stanze, insomma, visto che filtrano voci incombenti del pugno duro, no, sulle occupazioni, evidentemente forse loro signori si vogliono attrezzare per farne piazza pulita, ecco, che Piazza Indipendenza non la tocchi nessuno, domani l'assemblea da un certo punto di vista serve anche a questo, no, a testimoniare che comunque, esatto, è un'occupazione, sì, centrale di questo movimento di lotta e che quindi non va assolutamente toccata. E poi ripeto una cosa, la cosa che noi confidiamo moltissimo, su cui anche stiamo investendo, è nell'autonomia di gestione e proprietà di confronto diretto dal comitato interno di questa occupazione. Questa è una cosa che va anche ribadita, che non è che il movimento ci fa carico di una problematica che è enorme, che il movimento collabora con il comitato di questa occupazione per costruire un lavoro diverso all'interno della città. Ben detto. Allora Andres, noi ti ringraziamo, ricapitoliamo il tutto domani alle ore 17:30 a Piazza Indipendenza, assemblea pubblica per parlare della situazione dei rifugiati, del movimento di occupazioni delle case e per richiedere l'urgenza di provvedimenti che rendano la condizione del rifugiato dignitosa, e quindi l'appuntamento è per domani. Ciao. Sì, ripeto, ti dico un'ultima cosa, sì. Appuntamento, facciamo anche prima le 17:30, quindi sarà di base, ma le 17 faremo un meeting di accoglienza, di familiarità, insomma di socialità con sì. Le persone che sono lì dentro, se volete si compagni possono, le persone che ti ascoltano possono venire anche un momento prima e anche meglio. Va okay? Bene, quindi dalle 17 si può andare per anche socializzare un po'. Esatto, grazie. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao.